A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci, e lo state facendo davvero in tanti già, sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Vi invito anche a cliccare mi piace in modo da poter restare collegati alla nostra community per tutta la settimana, perché noi continuiamo anche al di fuori di questa diretta a darvi notizie, spunti, esclusive, interviste, insomma a tenere aperto con voi il dialogo. E poi potete scriverci anche via Twitter @capuano_joe. Diteci anche su Facebook e sull'800 24 0024 qual è stato secondo voi il gol più bello del pomeriggio di oggi. Io vi dico qual è stato il non gol più bello, quello che ha tentato Almiron da metà campo a Catania e ha costretto il portiere del Parma a un vero e proprio miracolo. Buon pomeriggio anche a Graziano Cesari. Buon pomeriggio. Allora, è stata una giornata particolare, Graziano, per gli arbitri. Io direi che c'è molto da lavorare, soprattutto a partire da quella che era forse la partita più attesa ed interessante. Cioè, stiamo parlando della gara di Siena tra Siena e Juventus, dove Mazzoleni, soprattutto nel primo tempo, è stato contestato. L'episodio chiave è quello, io credo, della mancata seconda ammonizione a Chiellini al 29esimo del primo tempo. Rapidamente, Chiellini era già stato ammonito al 22esimo per un'entrata in ritardo. Al 29esimo commette un fallo, mi sembra, su Felipe, probabilmente da giallo, almeno così chiedono i senesi, ma il giallo gli viene risparmiato e con esso il rosso. Allora, tu come l'hai vista? Allora, la prima munizione è sicuramente corretta, quella su Corosina. Il braccio è largo, tende a fermare la corsa di Rosina, quindi a interrompere la progressione di un avversario. Dopo pochi minuti c'è questo intervento nella zona mediana del campo con Chiellini che va direttamente su Felipe. Si chiama mancanza di corretto autocontrollo nell'affrontare un avversario. Avrebbe meritato il secondo giallo e quindi l'evidente espulsione. Quindi diciamo che è un errore quello di Mazzoleni non aver tirato fuori il cartellino rosso. È una mancanza di coraggio, quindi è un errore gravissimo. Anche perché, lo ripetiamo, siamo alla mezz'ora del primo tempo, certamente questa è una decisione che da un certo punto di vista condiziona il resto della partita. Noi il giudizio tecnico sulla partita l'abbiamo dato prima con Giampiero Timossi, lo daremo ancora nel corso di questa puntata con i nostri opinionisti, con gli opinionisti che interverranno. Juventus straordinaria nella sua capacità di non accettare il fatto di non vincere. Certo che questa è una scelta che però condiziona. C'è anche da spiegare, Graziano, l'espulsione di Cosmi, abbastanza particolare nel finale del primo tempo, perché in realtà Cosmi, che aveva molto protestato con Mazzoleni proprio per questo episodio, viene espulso perché se la prende con un barelliere. Sì, se la prende con un barelliere, esce dall'area tecnica, compie qualche passo fuori dall'area tecnica. Mi sembra che questo non sia un motivo abbastanza importante per decretare un allontanamento da parte dell'allenatore. Tant'è che poi Cosmi nel labiale si dice: io rimango qua, io resto qua, non mi muovo di qua. Cioè, in pratica contesta questo allontanamento. Sì, che è una posizione inaccettabile, perché quando viene presa una decisione, io penso che poi un allenatore possa anche risparmiarsi la scena di voler restare poi al suo posto. Oramai sei espulso, esci e chiudiamola lì. Eh sì, assolutamente sì, perché poi nel proseguo dell'azione, quando Cosmi finalmente si decide ad allontanarsi dal campo, va a posto fare anche carriera e poi succede successivamente dà anche una manata a una telecamera. Quindi un atteggiamento sicuramente meritevole di disapprovazione da tutti noi. Chiaramente c'è questa espulsione che lascia molto perplessi sul fatto che Cosmi possa aver detto qualcosa al quarto uomo Stefani o addirittura al direttore di gara. Sì, anche in questo caso sembra, o almeno così è stata descritta, come un'espulsione in realtà decisa proprio dal quarto uomo, comunicata a Mazzoleni, che poi di fatto è stato soltanto esecutore. Gli amici da casa ci stanno scrivendo in molti sull'episodio della mancata espulsione di Chiellini. Ci sono anche tifosi del Napoli, perché lo ricordiamo, alla ripresa dopo la sosta della nazionale c'è Juventus-Napoli e quindi il rosso a Chiellini sarebbe stato doppiamente pesante, perché avrebbe portato anche alla squalifica del difensore in vista di quello che si annuncia essere il primo dei due match scudetto di questa stagione. E poi perché Mazzoleni, Graziano, è l'arbitro della Supercoppa di Pechino, che ai tifosi del Napoli. Esattamente. Evidentemente non sta molto simpatico. C'è chi dice e scrive, però noi ci dissociamo da questo tipo di posizione, che Mazzolini sia una garanzia per la Juventus. Assolutamente, ci dissociamo sicuramente. Certo che la designazione non è stata una designazione felice. A posteriori, ma forse anche anteriori, quando la partita si poteva evitare di accomunare ancora Mazzolini con la Juventus dopo quello che era successo recentemente in occasione della Supercoppa. Sì, un po' più di prudenza, ma probabilmente i vertici dell'AIA sono impegnati in altro, perché si avvicinano le elezioni in questo momento. Per chiudere la moviola di Siena-Juventus, c'è anche nel primo tempo un Lichtsteiner pescato in fuorigioco che va comunque alla conclusione a gioco fermo. Anche qui forse poteva starci il cartellino giallo, ma siamo ai dettagli. Siamo ai dettagli, però dopo 17 minuti di gioco chiaramente il fischio è stato anticipato rispetto alla conclusione degli Steiner. Gli Steiner ha continuato, abbiamo visto come spesso molti altri calciatori vengono sanzionati, il laterale della Juventus invece se ne è cavato, è stato di nuovo graziato da Mazzolini. La finezza che invece vogliamo sottolineare di questa partita è Pirlo, che oramai sulle punizioni è diventato un killer e ha imparato anche a tirare sia sopra che sotto. Ha segnato tirando sotto la barriera, un po' come era accaduto ad esempio contro la Roma proprio una settimana fa, e poi nell'occasione successiva, Graziano, quando quelli del Siena hanno pensato bene di restare con i piedi piantati per terra, lui ha fatto passare il pallone sopra la loro testa e è andato a colpire l'incrocio dei pali. Davvero straordinario. Io do un numero agli amici che ci ascoltano da casa: negli ultimi 17 gol che ha segnato Pirlo ne ha fatti 12 direttamente su calcio di punizione. Io direi che questo numero, Graziano, basta da solo a designare la grandezza di questo giocatore anche in questa specialità. Sì. È uno dei più grandi centrocampisti in questo momento che calcola i nostri terreni di gioco. Terzo gol di punizione raso terra, quando poi ha provato ha preso l'incrocio dei pali, quindi devo dire assolutamente decisivi anche le sue punizioni, assolutamente decisivi i suoi gol che hanno poi aiutato la Juventus per esempio oggi a vincere a Siena in una partita davvero difficile, lo abbiamo detto. Graziano, ci fermiamo un minuto per il traffico, poi torniamo, c'è tutto il resto delle partite, c'è anche una gara a Torino con tanti falli di mano, veri o presunti, alla fine uno ha deciso la partita. Cercheremo di ricostruire un po' l'arbitraggio di Cieli. Ora il traffico. Andiamo subito a Siena, dove c'è Cosmi ai microfoni di Sky Sport. I campi di calcio c'è più gente dentro che fuori, insomma, voglio dire. E ho sollecitato, stavamo perdendo, gli ho detto che dovevano affrettare, insomma, voglio dire, anche se non è il loro compito. Però detto questo, insomma, mi è sembrata non tanto la protesta, insomma, forse sono uscito fuori dalla linea, insomma, di delimitazione, e l'arbitro, insomma, mi ha allontanato. Non ha portato bene, perché appena sono uscito abbiamo pareggiato. Poi è un peccato, sì, beh, parliamo della partita, perché è un peccato, perché è normale arrivare fino a pochi minuti dalla fine in parità di risultato, e anche tutto sommato, ovviamente non come gioco, perché era impensabile che giocassimo meglio della Juve, però insomma, anche con occasioni importanti, avete visto le due del primo tempo, quella di Rosina sull'1-1, che credo che sia difficilmente capire come. E questo è tutto il rammarico di Cosmi ai microfoni di Sky Sport. Io credo una lettura abbastanza corretta, Graziano, della partita del Siena e della Juventus, perché è stato un ottimo Siena, oltre che una Juventus palesemente in difficoltà, soprattutto per alcuni tratti. Rapidamente ancora per la moviola, Catania-Parma 2-0, ci sono un paio di episodi da analizzare. Intanto sul gol del vantaggio del Catania, c'è da capire se la posizione di Gomez sul taglio di Barrientos è regolare. Assolutamente sì, è una posizione assolutamente regolare, bravissimo Gomez che sceglie il tempo, sceglie il tempo giusto. I difensori del Parma, in particolar modo Lucarelli, non salgono, e quindi Gomez può tranquillamente prefiggere al mirante, e devo dire che è un gol perfettamente regolare, in questo caso molto bravo l'assistente Viatti. E lo segnaliamo e ci fa piacere. E poi c'è a metà della ripresa l'espulsione di Benaluane, che già ammonito da uno scappellotto a Gomez, davvero incredibile, rischiava addirittura il rosso diretto. Esatto, proprio vicino alle panchine, diciamo così, assoluta ingenuità di questo giocatore giovane del Parma, talmente visibile e talmente plateale che non può il direttore di gara esimersi dal secondo giallo, quindi Calvarese ha fatto benissimo. Poi Fiorentina-Bologna 1-0, gol di Jovetic al settimo del primo tempo. C'è qualche protesta da parte dei giocatori del Bologna per la posizione di Jovetic. A me sembra regolare per un piede di pazienza. Tu come l'hai visto? Assolutamente, assolutamente sì. Devo dire che in questo caso è stato bravissimo l'assistente a cogliere questo piede. E Jovetic è in posizione assolutamente regolare. Rientra male il giocatore del Bologna da una posizione di calcio d'angolo. Ritarda verso il centro del campo e Jovetic può tranquillamente ribadire in rete. Nel secondo tempo invece ha annullato un gol a Toni, e qui forse l'assistente Giacchero sbaglia, perché Toni probabilmente è in linea sulla respinta di Agliardi, però io l'ho vista di sfuggita. Allora ti dico che noi abbiamo tracciato la linea, quindi la linea è una linea meccanica, elettronica, e non ha bisogno certamente della mano dell'uomo. È una gamba, Toni, una gamba destra leggermente più avanti di Natali, quindi era fuori gioco. Complimenti a Giacchero. Allora ci fa piacere fare complimenti anche a Giacchero. Tralasciamo Pescara Lazio, perché è finito tutto nella prima mezz'ora. Davvero una buona prestazione del Lazio e un Pescara che è tornato a quello che è stato in questo inizio di campionato, però certamente avrà modo di riprendersi. Torino-Cagliari invece è stata una partita ricca di episodi, però c'è ancora Cosmi che sta parlando a Sky Sport, sentiamolo. Perché lo stesso, la stessa Sampdoria e via dicendo, sono squadre di grosso livello, insomma, quindi sì, abbiamo dentro di noi sicuramente la forza per poter ripartire, perché questa prestazione deve darci assolutamente Massimo questa forza, Mauro, perché no, saremmo dei folli. E non c'è dubbio, non c'è dubbio che il Siena deve ripartire da questa prestazione, che è stata una prestazione al di là dei risultati eccellente. Torino-Cagliari, vittoria del Cagliari 1-0, ha vinto su rigore con Nenè alla mezz'ora del secondo tempo. Un rigore che Celi dà perché su un tiro verso la porta del Torino il pallone viene fermato con il braccio. Glick protesta dicendo che in realtà il pallone ha colpito il fianco e non il braccio, e quindi non si trattava di calcio di rigore, invece è calcio di rigore per Celi. Tu come l'hai vista? Allora, calcio di rigore nettissimo. Devo dire che Glick sono immotivati le sue proteste, perché sul tiro di Astori poteva permettersi un altro tipo di intervento, invece allarga il braccio sinistro, che da una posizione... Intanto Graziano, scusami, sentiamo Cosmi proprio sull'episodio di Chiellini. Siamo talmente inferiori sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto di giocatori alla Juventus come altre squadre, dove questi episodi per una squadra come noi possono diventare decisivo. Lo dico con estrema serenità, poi molto probabilmente la valutazione è stata fatta diversamente, e Chiellini è quello che ha messo la palla per Marchisio al 42esimo, insomma. E quindi al dente avvelenato Cosmi. Allora chiudiamo Graziano su Torino-Cagliari, dicevamo il rigore poi decisivo di Nenè. Assolutamente, questo braccio sinistro di Glick che si allarga pericolosamente, parte dalla coscia, si allarga verso l'esterno e quindi va a impattare il pallone, poi Glick ritira le braccia e le porta verso il petto. Rigore direi assolutamente ineccepibile, questo fischiato da Celi. Sì, io devo dirti la verità, a un certo punto in Torino-Cagliari ho un po' perso il conto, perché ce ne sono stati parecchi di episodi simili. Allora proviamo a ricostruirli tutti, anche perché ci interessa capire, al di là di fare la vivisezione alla moviola di questa partita, se il metro applicato da Celi, dai suoi collaboratori, è stato uniforme nel corso di tutta la partita e per tutti questi episodi, o se anche questo può essere un tassello per poi imparare come vada diretta una gara. Io ne ho segnati almeno un altro paio, cioè un tocco di testa di Stevanovic su un colpo di testa di un giocatore del Cagliari, e poi proprio nel finale un fallo di mano invece di un giocatore del Cagliari. Aiutami tu però. Allora, devo dire che tutti e due sono secondo me calci di punizione, perché questi sono tutti interventi con la mano, che la mano si può tendere lontano dal corpo e va a occupare una posizione maggiore di quella che ha la massa corporea, quindi sono tutti da sanzionare assolutissimamente. Direi che proprio questo elemento di diversa valutazione poi del direttore di gara, difformità che ho usato, così come nel primo tempo al 36esimo è stata annullata una rete a Nainggolan per un tocco di mano di Nenè, assolutamente inventato il tocco di mano, se mi permetti, un termine certamente non bello per chi deve descrivere il regolamento, ma Nenè aveva toccato con la faccia, quindi una differenza palese, plateale, di questi interventi di mano puliti in un modo assolutamente diverso. Anche se nel primo caso diciamo che era un'azione molto confusa, tanto che per qualche istante si è anche pensato che il gol fosse stato annullato per fuorigioco, e per fuorigioco invece c'è stato un gol annullato al Torino nel finale di partita, un gol di Rolando Bianchi, a me è parso tenuto in gioco da un piede di Pisano. Ti devo dire che invece sono quattro giocatori del Torino che sono in posizione almeno valutabile di offside, e sicuramente Rolando Bianchi quando va a colpire è in posizione di fuorigioco. E beh, insomma, e noi siamo contenti perché noi non siamo qui, io lo dico anche agli amici da casa, che sulla Moviola ci criticano perché in tanti vorrebbero continuare le analisi sulle partite, ma noi andiamo avanti fino alle 19, a noi piace invece dare subito il quadro, perché poi spesso, lo ha detto anche Cosmi ad esempio, ma anche con grande tranquillità, serenità e correttezza, sono comunque episodi importanti che segnano le partite. Graziano, domenica prossima, anzi fra due settimane, perché il campionato si ferma per la nazionale, e quindi anche noi ti concediamo un turno di riposo. Grazie. Grazie a voi, e se ti serve ti do l'arbitro di Juventus-Napoli. Dammi l'arbitro di Juventus-Napoli. Orsato. Orsato, che in questa fine settimana, se non sbaglio, ha diretto Fiorentina-Bologna. Esatto. E ha diretto anche abbastanza bene. È molto bene. Lo abbiamo detto. E quindi sarà lui, secondo te, il direttore di gara del primo match scudetto tra Juventus e Napoli. Beh, lo verifichiamo fra due settimane. Graziano Cesari in linea, invece in diretta su Mediaset Premium, ancora poi nel corso del fine settimana per la Moviola. Grazie, ci sentiamo fra due settimane. Io saluto Bruno da Roma, che ci ha raggiunto all'800 24 0024. Bruno. Prego. Volevo chiedere che opinione avete dell'attacco della Juve. Io ci vedo molti giocatori di uguale valore, ma manca il punteros, quello che può determinare partite. Il top player, non mi dica che parla anche lei di top player, però. No, non mi piace il termine top player, ci vuole una punta che la butta dentro. Sì, però io le dico anche che la Juventus, intanto la ringrazio, grazie per averci chiamato, le dico anche che la Juventus fra tutte le squadre di Serie A è quella che è andata in rete con il maggior numero di persone, in fondo lo abbiamo visto, le partite si decidono anche con i centrocampisti, come è accaduto oggi con Marchisio. Intanto sentiamo Montella, Sky Sport. Grosso modo ha giocato con la stessa idea di gioco anche in trasferta, probabilmente ci mancano i due punti di Parma, che magari avrebbe legittimato meglio la nostra dimensione, però si va avanti e recupereremo in futuro, mi auguro. Sì, Fiorentina che è salita a quota 11 punti, Fiorentina che veniva dalla sconfitta contro l'Inter di San Siro, mancavano anche, correttamente lo ha ricordato Montella, i due punti di Parma, Fiorentina che è a quota 11 e subito alle spalle proprio dell'Inter, che ha ovviamente ancora una partita in meno, però si trova in quella fascia di classifica in cui le squadre possono cominciare a progettare una stagione inseguendo almeno un piazzamento in Europa League, e questo è un ottimo risultato per una squadra, per un ambiente, per una società che ha terminato la passata stagione salvandosi davvero per il rotto della cuffia. Per chiudere la risposta invece all'amico che ci ha chiamato, tifoso della Juventus, la partita di oggi dimostra come non sempre è necessario avere una punta da 20 gol per vincere, soprattutto se si parla del livello del campionato italiano. Certo, qualcosa cambia quando si parla delle partite di Champions League, lo abbiamo visto anche in occasione della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, lì il livello è più alto, questa Juventus è destinata a soffrire, ma probabilmente nemmeno l'arrivo di un top player in estate avrebbe colmato il gap di esperienza che separa la Juventus in questo momento dalle migliori squadre del continente. Io ricordo ancora i contatti, 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci sulla pagina Facebook A Tempo di Sport, dove aspettiamo anche di sapere qual è stato secondo voi il gol della giornata. Qualcuno ci chiede anche di far votare la parata della giornata, vediamo se avete dei suggerimenti, oppure potete scriverci via Twitter, l'indirizzo, l'account è @ Capuano Gio. Sta parlando ancora Montella della sua Fiorentina, vediamo di cogliere ancora un passaggio prima di fermarci per meteo e pubblicità. Ecco Sentiamo Montella. Ha detto chiaramente che preferiva avere te. No, non ha detto, no, non capivano, ma non mi ricordo che avesse detto così chiaramente come invece pensate voi. Vabbè, lo prenderei molto volentieri. Sì, si sta parlando ovviamente dei tanti che vogliono Montella e viceversa. Dopo la pubblicità e il meteo parleremo anche di che cosa sta capitando all'interno della Roma. Oggi la Roma ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, ma scoppia il caso De Rossi, che è stato escluso insieme a Burdisso ed Osvaldo. C'è una vera spaccatura che vede per il momento vincente Zeman, ma che potenzialmente può essere dirompente per l'ambiente romano. Ci fermiamo, meteo, pubblicità e poi torniamo con la nostra prima pagina. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta per dirci cosa ne pensate di questa settima giornata che ha visto la Juventus vincere seppure a fatica a Siena, oppure potete scriverlo al 349 238 6666. Sentiamo Carrera, Sky Sport. Era un gol, però ci prendiamo la vittoria e adesso abbiamo la sosta per riprendere un po' di fiato. No, ma stava raccontando Carrera dell'incredibile gol sbagliato da Calaiò del Siena, un rigore in movimento in un pomeriggio, e saluto Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Buon pomeriggio Vittorio. C'è qualche problema forse di collegamento con Vittorio Reggia? Allora, pronto? Eccomi qui Vittorio. Dicevo, in un pomeriggio Carrera parlava del gol incredibile sbagliato da Calaiò davanti a Buffon in un pomeriggio difficile per la Juventus, al di là della vittoria. Ma credo che sia, siccome conosco molto bene Carrera, credo che sia una persona onesta e abbia visto lui dalla panchina ciò che noi abbiamo visto dalla tribuna o dalla televisione. È una Juventus che ha faticato oltre misura a battere il Siena, è stata in certi tratti sfortunata sulla punizione di Pirlo, finita contro la traversa, in altre occasioni ha esaltato la bravura del portiere, di Pegolo, e in altri casi invece è stata lei fortunata e comunque ha dimostrato di giocare alla pari del Siena, o meglio il Siena, dimostrato di poter giocare alla pari di una Juventus che, mi pare che si sia capito dalla Shakhtar, non è in condizione ottimale in alcuni giocatori fondamentali, alcune pedine chiave della squadra di Conte non stanno benissimo e questo inevitabilmente si riflette poi sul rendimento generale della squadra. E probabilmente Vittorio sono anche scelte di preparazione queste, però sono le 17:35 e noi entriamo nella nostra prima pagina, la prima pagina di A Tempo di Sport. Perché la Juventus vince, allunga in testa in attesa di Napoli-Udinese, a Siena soffre fino al gol di Marchisio nel finale, c'è la direzione di gara contestata di Mazzoleni, espulso Cosmi, Chiellini forse da rosso nel primo tempo, c'è un dato però impressionante, un anno fa i bianconeri dopo 7 gare avevano 13 punti, quest'anno sono già 19. E poi c'è la Roma che si spacca ma vince, Zeman tiene fuori i ribelli De Rossi, Osvaldo e Burdisso, ma trova i 3 punti contro l'Atalanta, per la prima volta non subisce gol. Scelgo chi mi offre maggiori garanzie, ha detto il boemo, però il caso è aperto, mentre la Lazio vola solitaria al terzo posto. E infine, questa sera, il derby della Milano che vive l'austerity, qualche sorpresa nelle formazioni secondo le indiscrezioni che arrivano da Piano e Milanello, ad esempio si va verso l'esclusione di Abate ed Antonini nel Milan e la conferma di Coutinho da parte di Stramaccioni, un derby che non vale la maglia azzurra tra El Shaarawy e Cassano, perché il primo giocherà con Prandelli, mentre il secondo sembra stato forse definitivamente accantonato. Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport, c'è questo dato impressionante della Juventus. Dopo le prime 7 partite giocate, un anno fa aveva 6 punti in meno. È vero che era l'inizio del progetto Conte, però questo spiega, io credo, anche in maniera plastica, fotografica, il ritmo che sta tenendo in questo campionato la squadra bianconera. Sì, devo dirti che è comunque un campionato per adesso livellato verso il basso. Lo avevamo già pensato quest'estate quando abbiamo visto la partenza di tanti nomi illustri dal Milan e dall'Inter, che fatalmente per adesso sono un po' fuori dai giochi, ma è chiaro che la Juventus sta tenendo un ritmo veramente forsennato, lo stesso ritmo non riesce a mantenerlo in Europa, ma questo penso che sia un discorso da approfondire in chiave Champions, non in chiave campionato. Se riesce a raddrizzare partite come quelle di oggi, probabilmente veramente è l'anno giusto, tenuto ancora conto che il Napoli deve giocare, e se il Napoli riuscirà a battere l'Udinese sarà comunque alla pari della Juventus senza avere l'impegno di una coppa massacrante come la Champions, visto come hanno interpretato l'impegno di Europa League i giocatori di Mazzarri. Sì, c'è il rischio questa sera di avere, dopo derby e Napoli-Udinese, una classifica spezzata in due tronconi con Juventus-Napoli e in parte la Lazio che fanno una corsa a sé. Tu prova a immaginare se l'Inter dovesse perdere o comunque non vincere il derby di questa sera, sarebbe comunque quarta in classifica, ma già a distanze siderali dalla Juventus, dal Napoli, probabilmente lasciando intendere ancora in maniera più chiara quale sarà l'importanza, io credo, del rientro di questo campionato sabato 20 ottobre, ore 18, Juventus-Napoli. Io penso che in queste due settimane, con tutto il rispetto per la nazionale, la testa di molti andrà già a quei 90 minuti. Sì, anche perché è tenuto conto degli impegni della nazionale, ma qui non è colpa né di Prandelli né della federazione, se siamo capitati in un girone, non dico facile perché ormai nel calcio a livello internazionale non c'è più niente di facile, ma sicuramente con poco appeal, insomma andiamo in Armenia, affrontiamo la Danimarca, non è che ci sia tutto questo prurito per vedere due partite, insomma veramente con poco appeal. È chiaro che si parlerà tantissimo, se dovesse finire con la vittoria del Napoli questa sera contro l'Udinese, di questa super sfida. Purtroppo io dico giocata alle 18, perché è un orario un po' strano, sarebbe stato meglio o averla serale. Comunque è chiaro che questo diventerà il nodo, il fulcro su quale si avviteranno le prossime due settimane, anche perché, lo dico io per primo, sarà compito dei media non fare calare questa bella, io dico sana, tensione agonistica che produce uno scontro al vertice tra l'altro da due squadre che si sono già incontrate e scontrate a Pechino per la Supercoppa con miriade di polemiche, litigi e via dicendo. Insomma, non essendoci più, almeno per adesso, le polemiche col Milan e con l'Inter, il Napoli tiene alto la nostra fama di polemisti italiani, diciamo diventando l'avversario, il nemico numero uno della Juventus, che come si sa metà dell'Italia lo ama e metà dell'Italia lo odia. Ti aspetti questa sera qualche uscita napoletana sul cartellino rosso che poteva essere dato a Chiellini nel primo tempo oggi a Siena? Ne abbiamo parlato prima con Graziano Cesari, lui dice Mazzoleni ha peccato, ha mancato un po' di coraggio, quello era un secondo cartellino giallo da dare. Io non so come la giudicate voi a Tutto Sport, ma cosa guarda, scriverete domani. Io credo anche che se ci fosse stato il cartellino rosso e l'espulsione, penso che nessuno avrebbe potuto storcere il naso, insomma sono sembrati entrambi i falli, forse più il primo del secondo, da cartellino giallo. Poteva starci. Oggettivamente sì, poteva starci. Penso che com'è l'andazzo in Italia non ci sia neanche da gridare allo scandalo se invece Chiellini sia rimasto in campo. Oggettivamente credo che, io l'ho vista in televisione la partita, non ero a Siena, penso che il doppio giallo potesse assolutamente starci. Con che occhio questa sera seguirà il derby di Milano? Fa un po' impressione vedere Inter e Milan così depresse, in un ambiente così depresso, non ci sarà il tutto esaurito, mi raccontano che nel piazzale fuori da San Siro ci siano i butta dentro in azione per cercare di raggiungere il più possibile una quota superiore ai 70.000, noi stiamo ovviamente scherzando, tra l'altro segnalo c'è Giacomo Ciccio Valenti che sta cercando un biglietto per il secondo anello verde, perché lui il derby, lui è tifoso interista, lo vuole vedere assolutamente dalla curva, quindi noi rilanciamo anche dalle nostre frequenze questo appello: se qualcuno ha un biglietto da vendergli lo contatti su Twitter. Con che occhio lo vedi invece tu, Vittorio? Guarda, io lo vedo sicuramente con occhio interessato, farò un po' di zapping tra Napoli e il derby di Milano. Penso che nessuno si possa sorprendere se è un derby di Milano un pochino a scartamento ridotto, perché quando tu rinunci a Ibrahimovic e a Thiago Silva, quando tu praticamente ricominci, rifondi una squadra, anche se con delle operazioni intelligenti a mio avviso, senza svegliarsi, e parlo dell'Inter, è chiaro che qualcosa perdi, è chiaro che un anno fa era un altro derby, due anni fa un altro derby ancora. adesso sono due squadre che si stanno rimettendo in ordine, chi con i conti, chi con i giocatori, e le rifondazioni fatalmente passano attraverso delle stagioni, non dico tristi o brutte, ma delle stagioni un po' controverse, con degli alti e bassi. Chiaro, mi in fa tutta impressione. Sincerità, se vincesse l'Inter questa sera salirebbe a quota 15, ma al di là del conto matematico cominceresti a ritenerla, non dico una seria rivale della Juventus nella corsa allo scudetto, ma comunque una realtà da tenere in considerazione forse più di quanto si pensasse all'inizio della stagione? Guarda, se l'Inter dovesse battere il Milan e salire a 15 punti, io la terrei in seria considerazione, perché comunque è sempre l'Inter. Io credo che sia allenata da un ottimo tecnico che è Stramaccioni e ha dalla sua una storia, un pedigree e ancora una base. Mi vengono soprattutto in mente tre nomi: Zanetti, Cambiasse, Milito, una base di giocatori che sono nati per vincere, sono cresciuti con la vittoria nel loro codice genetico e quindi possono dare sempre quel qualcosa in più. Quindi, ma ti dico, anche se dovesse pareggiare l'Inter, io non la terrei fuori dai giochi. Al contrario, ti dico, se dovesse perdere il Milan, il divario dalla prima sarebbe di 12 punti. Credo che sì, più che un ritardo sarebbe un abisso, ma anche perché la situazione emozionale all'interno delle due società mi sembra diversa. All'Inter stanno ricostruendo con serenità e stanno, insomma, sono consapevoli che ci possono essere dei passi a vuoto. Il Milan mi pare una situazione molto più tesa per Galliani, per Allegri, per i giocatori stessi, insomma non mi pare che si respiri la stessa aria. Dovessero perdere il derby, sì, probabilmente sarebbero anche due settimane difficili da gestire per Allegri. Grazie a Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Grazie Vittorio. Grazie a Vittorio Reggia. Rapidamente Petkovic, Sky Sport. Giocare in questa maniera, anche come grande squadre che in momenti giusti sono cinici, che anche sono capaci di subire, anche soffrire, e in momenti quando va tutto bene, come oggi primo tempo, devono colpire. Questa mentalità vincente, a lottare per ogni gol che abbiamo dimostrato oggi, è il primo passo che abbiamo fatto. Squadra è già migliorata, ma non è ancora al 100%. Questo è il giudizio di Petkovic sulla Lazio. Oggi ha sofferto davvero poco, perché ha chiuso la pratica nei primi 35 minuti del primo tempo. Gol di Hernanes, straordinario su punizione. A proposito, io lo candido come gol più bello della giornata. Stanno già arrivando alcune segnalazioni. Massimo, ad esempio, ci dice che a lui è piaciuto il primo gol del Chievo. Triangolo, portiere per terra e palla in rete. Davvero molto bello. Beh, anche quello di Hernanes, punizione sotto l'incrocio dei pali, si fa ammirare. Poi la doppietta di Klose, tutto facile per la Lazio che arriva a questa pausa terza in classifica. Ci fermiamo, spazio alle notizie sul traffico, poi torniamo ancora con la nostra prima pagina. C'è ancora Petkovic ai microfoni di Sky Sport. La sua Lazio è certamente una delle realtà più belle di questo inizio di campionato. Io ricordo ancora i contatti per parlare con noi. Ci interessa sapere che cosa ne pensate dei risultati di questa settima giornata del campionato di Serie A. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci su Facebook. La pagina è A Tempo di Sport, dove abbiamo appena postato la moviola di Graziano Cesari su Siena Juventus e sull'ammonizione, la seconda che poteva portare al rosso, risparmiata a Chiellini. Quindi scriveteci ancora che cosa ne pensate, oppure potete scriverci su Twitter @CapuanoGio. Buon pomeriggio ad Alessandro Vocalelli. Buon pomeriggio Alessandro. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori, buonasera a tutti. Oggi firma di Repubblica, ma ex direttore del Corriere dello Sport, perché oggi c'è molto da parlare anche di quello che sta avvenendo di bello e di brutto nell'ambiente romano. Prima però riapriamo la nostra prima pagina. Una prima pagina in cui c'è la Juventus che vince, allunga in testa in attesa di Napoli-Udinese, a Siena soffre fino al gol di Marchisio, c'è la direzione di gara contestata di Mazzoleni, l'espulsione di Cosmi, Chiellini forse da rosso nel primo tempo. C'è però un dato impressionante: un anno fa, dopo 7 gare, i bianconeri avevano 13 punti, oggi, pensate, ne hanno 6 in più. E poi la Roma che si spacca ma vince, Zeman tiene fuori i ribelli De Rossi, Osvaldo, Burdisso, ma trova i tre punti contro l'Atalanta per la prima volta, non subisce gol. Scelgo chi mi offre maggiori garanzie, dice il boemo, però il caso è aperto. Invece la Lazio vola solitaria al terzo posto, trascinata da uno straordinario Klose. E questa sera, oltre a Napoli-Udinese, il derby di Milano, un derby d'austerity, qualche sorpresa nelle formazioni, secondo le indiscrezioni che arrivano, ad esempio nel Milan si va verso l'esclusione di Abate e Antonini, l'Inter potrebbe vedere la conferma di Coutinho dietro Milito e Cassano, è un derby che non vale per la maglia azzurra, quello tra il Sharawi e lo stesso Cassano, e il Sharawi va in nazionale con Prandelli per Cassano, la storia azzurra invece sembra definitivamente finita, ci interessa sapere anche che cosa ne pensate. Alessandro Vocalelli, tu cosa ne pensi dell'esclusione di Cassano dalla nazionale? Dovrebbe essere ufficializzata a minuti, in serata, però pare certo che non sarà chiamato da Prandelli e a questo punto, visto che il talento dell'Inter, il talento barese, sta attraversando un buon momento di forma, io credo che sia chiaro che per lui le prospettive azzurre si chiudono, se non definitivamente quasi. Penso che innanzitutto bisognerebbe metterci d'accordo e capire come può un giocatore 3 mesi fa essere considerato strategico, centrale, al punto di essere titolare assoluto della nazionale e poi dopo 3 mesi essere un giocatore non più considerato. Io penso di immaginare che è successo qualcosa all'interno del gruppo e che evidentemente ci siamo, diciamo così, anche qualche giocatore che magari in qualche modo non gradisce troppo il carattere esuberante di Cassano, altrimenti, ripeto, da un punto di vista di gestione è assolutamente inspiegabile. Prandelli non può spiegarlo, essendo CT, ripeto, che 3 mesi fa gli ha affidato le chiavi della nazionale. Sì, io credo, Alessandro, sarà molto interessante sentire che cosa dirà Prandelli, perché un mese fa, a metà settembre, lui se l'è cavata, secondo me, con una battuta. Cassano aveva appena detto, arrivato all'Inter, di essere al 50-60% della condizione e di fatto gli aveva fornito un assist. Siccome questo alibi della condizione oggi non c'è, io mi aspetto che Prandelli abbia la forza, il coraggio, l'onestà intellettuale di dire chiaramente quali sono i suoi progetti o quali non sono i suoi progetti su Cassano nel prossimo biennio, quello che porta ai mondiali del Brasile, così anche da risparmiarci il tormentone da qui al 2014. Dato che io rispetto a te una minore ottimismo e fiducia di avere delle risposte chiare, temo che sentirò dire che in questo momento la nazionale è in costruzione, si va verso i mondiali del Brasile, per cui bisogna verificare strade nuove, che Cassano rimane comunque è un giocatore col talento che sappiamo e quindi non ha bisogno di ulteriori esami, e vedremo magari tra 2 anni quali saranno le sue condizioni, perché è uno che conosce tutta la nazionale può rientrare in qualsiasi momento. Io non credo che ci verrà detto qualcosa di esplicito e definitivo, temo, insomma, anche però, ripeto, trovo comunque singolare da un punto di vista dialettico, assolutamente non smentibile il fatto che, ripeto, 3 mesi fa era considerato il giocatore chiave della nazionale, adesso è uno che non viene convocato malgrado la migliore partenza della sua carriera. Mi viene da pensare, ripeto, che ci sia qualche motivo di carattere di gestione del gruppo che consiglierà questo. Detto questo, io penso che noi abbiamo tanti ottimi. Sì, la fortuna di Prandelli è che ci sono le alternative e quindi probabilmente può tranquillamente fare, serenamente fare a meno di Cassano. Alessandro Vocalelli, cosa sta succedendo invece alla Roma? Oggi Zeman ha tenuto fuori quelli che in settimana avevano espresso delle perplessità sul suo gioco, ha vinto, non ha subito gol. Tu conosci bene l'ambiente romano, è comunque una decisione che rischia di pesare parecchio sul rapporto tra il boemo e tutto l'ambiente. È una decisione dura e come tutte le decisioni dure possono in qualche modo essere smorzate dal risultato, che sicuramente è un risultato importante, però segnano in qualche modo una tappa nel percorso che sta facendo la Roma. Io credo che al di là dei sorrisi anche in panchina di De Rossi, di Osvaldo, ma soprattutto di De Rossi, c'è qualcosa che emerge da questa partita con l'Atalanta ed è sicuramente un po' la lontananza tra De Rossi e Zeman. Io credo che addirittura più dell'esclusione faccia una sensazione le parole che Zeman ha pronunciato prima e soprattutto dopo la partita, appunto parlando di scarsa motivazione, attenzione, concentrazione. Insomma, io per quello che conosco De Rossi e che so che è un giocatore comunque calato moltissimo nel suo ruolo e così viene invece additato, diciamo, a Roma e anche fuori Roma, come uno che invece magari pensa ad altre cose, credo che... È una diagnosi che non può accettare. Grazie ad Alessandro Vocalelli, firma di Repubblica, ex direttore del Corriere dello Sport. Noi ci fermiamo per il GR, poi torniamo e continuiamo a parlare di questa settima giornata con tutti i risultati, con tutti i riflessi. Sentiremo la voce di Carrera, sentiremo queste parole di Zeman su De Rossi, Burdisso, Osvaldo e gli altri epurati dalla Roma. Ora ci fermiamo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. C'è Ventura, Sky Sport, sta parlando dell'episodio che ha deciso Torino Cagliari, il rigore. Allora, sì. Questo è Massimo, ma se uno Mauro si sta riparando praticamente e non ce la fa in tempo a tirarsi le braccia dietro il corpo, cioè tu lo punisci, allora insomma è tutta però un'altra per esempio storia. Qui ci sono tra te, insomma, Luca, mi sembra Marchigiani... di capire che l'allenatore del Torino sia poco d'accordo con la decisione di Celi, che di fatto ha deciso questa partita. Buon pomeriggio, anzi ormai buonasera, De Eugenio Fascetti. Buonasera Fascetti, per parlare di Cassano, noi abbiamo aperto prima con Alessandro Vocalelli l'argomento. Non c'è ancora l'ufficialità, perché in federazione hanno fatto sapere che le convocazioni saranno diramate in serata. Io credo bisognerà attendere almeno ancora un'ora, comunque siamo qui per raccontarla eventualmente, però pare chiaro che si va verso l'esclusione di Antonio Cassano, la convocazione di El Shaarawy, che è una convocazione assolutamente legittima, 5 gol negli ultimi 10 giorni. Però Fascetti, questa esclusione di Cassano fa discutere. Diceva Vocalelli prima, non mi aspetto che Prandelli domani la motivi in maniera completa. Lei cosa si aspetta? Ma io sono abbastanza chiaro, se è una questione disciplinare non c'entro, se è una questione tecnica la trovo assurda. Io credo possa essere in questo caso una questione tecnica. Credo possa essere in questo caso una questione tecnica, perché è vero che in tanti parlano di atteggiamenti nel corso degli europei, però è altrettanto vero che se Prandelli avesse davvero bisogno del giocatore, probabilmente esattamente come 3 mesi fa passerebbe sopra anche alle questioni disciplinari. Ma non so, chiamare Cassano per gli europei quando era al 50% e non chiamare adesso mi sembra un controsenso, perché d'accordo di qui ai mondiali c'è 2 anni, ma bisogna andare ai mondiali. Io addirittura, cioè, vedendo Totti adesso, chiamerei anche Totti, ecco, perché in una forma strepitosa, oggi è stato il migliore di tutti. Quindi in questo momento bisogna cercare di vincere subito e poi piano piano faremo anche la squadra per i mondiali, perché non è mica detto, abbiamo 2 partite non facili. Io dico, c'è una questione extracalcio, e questo lo sa solo lui e lo sa solo Cassano. C'è una questione tecnica, la trovo in questo momento, non la trovo giusta, ecco. Ma lei ha l'impressione che la storia di Cassano con la nazionale sia finita nella finale di Kiev? Oh, dai, non lo so, io se lo ripeto un'altra volta, se è una questione tecnica la trovo non giusta. Se Cassano non viene convocato oggi, dopo un mese comunque giocato ad altissimi livelli, è evidente che qualche conclusione forse si può trarre, ma anche senza entrare nell'aspetto disciplinare. Cosa costa essere chiari? Cassano che stiamo vedendo oggi, a che livello lo mettiamo nell'arco della sua carriera? Ma io ripeto, io sul serio del parere che il miglior Cassano lo dovremo ancora vedere, speriamo che faccia in tempo, ecco, perché secondo me non ha mai giocato al 100% delle sue possibilità. Questo le sta piacendo, però sembra un po' più maturo? Sì. Ma io parlo del campo, io parlo che domenica contro la Fiorentina al primo tempo è stato massacrato la Fiorentina, perché se Milito avesse fatto il gol, buonanotte. Gli sta trovando anche una buona collocazione Stramaccioni? Da questo punto di vista lo sta utilizzando al meglio? Guardi, Cassano, questo si può dire. Da quando è ragazzino il suo ruolo è, secondo me, dietro la prima punta. Che è quello che più o meno gli sta facendo fare Stramaccioni oggi? Non lo vedo rincorrere gli avversari, non lo vedo pressare, lo vedo lì. Cioè, un po' libero e non si può chiedere anche di fare il gol, dare l'assist e rincorrere l'avversario. Io credo che in questo momento agli attaccanti si sta chiedendo troppo. Io ho letto un'intervista, ho letto se è vera, penso di sì perché è virgolettata, quindi non credo che ci siano. Quando sento dire Carrera che ha sostituito Vucinic martedì, per mettere una punta che marcasse il centrocampista arretrato avversario, a questo punto poi capisci perché le punte della Juventus fanno pochi gol, oppure perché arrivano stanchi, poco da fare. Si rischia di snaturare il ruolo. Sì, mi sa che lo stiamo snaturando. Cioè gli attaccanti sono lì per segnare. Ma l'attaccante mi puoi chiedere, cioè l'attaccante che fa uno scatto, si propone per l'azione offensiva, conclude l'azione, deve pensare di ritornare a marcare il proprio difensore, mi sembra tanta roba. Non so se 90 minuti, io da quello che mi risulta nessuno può fare 90 minuti a quel ritmo lì. Facete, mi interessava il discorso della carta d'identità. Lei prima ha citato Totti, la sua prestazione ancora straordinaria di oggi. Oggi è stato straordinario. Ma perché allora, dal momento che bisogna andare ai mondiali, perché bisogna andarci, e vai in Armenia ora con tutti i ragazzini davanti, non lo so, ecco. Io in questo momento cercherei di fare più punti possibili una volta. Ma lei il Sharawi l'avrebbe chiamato, lo chiamerebbe? Sicuramente, ma non possiamo pensare che ti possa risolvere tutte le partite, ma poi c'è Sharawi, poi c'è Balotelli, tutti i ragazzi non interessanti di più. Tra l'altro Balotelli è al centro di una bufera, perché pare che ieri, sostituito e poco d'accordo con Mancini, sia andato direttamente all'aeroporto senza passare quasi neanche dagli spogliatoi. Che chiedere a questi ragazzi poi di risolvere partite che possono essere complicate, come quelle con Armenia e Danimarca, che sono già decisive, perché noi ci siamo un po' complicati la vita pareggiando in Bulgaria, può diventare ingeneroso. No, io ripeto, in questo momento chi sono i migliori giocatori che esprime il campione italiano? E chiamo quelli poi. Come finisce stasera il derby, Fascetti? Ma io mi auguro che vinca l'Inter. Almeno per trovare una terza rivale alla Juventus. C'è il Napoli, aspettiamo il risultato di Napoli-Udinese, perché altrimenti questo rischia di essere un campionato che vive davvero poco. Mi dispiace dirlo, perché sono un anti-ventino, così sono interista, quindi. Però ripeto che anche quest'anno penso che nel campionato ci sarà poca storia. Se vince partite come quelle di oggi. Mi auguro di sbagliarmi. Poi insomma, anche oggi è una partita discutibile, perché anche oggi l'arbitraggio è sempre... alla lunga uno può pensare male, insomma. Che Chiellini sia rimasto in campo tutta la partita non lo trovo giusto. Sì, ne abbiamo parlato, stiamo ricevendo tantissimi messaggi anche dei tifosi juventini che ci accusano di voler fare soltanto la moviola alla Juventus, caro Fascetti. Noi ne abbiamo parlato con Graziano Cesari prima. Io ricordo a loro, ricordo a tutti, noi siamo qui a fare il nostro lavoro, che una settimana fa le stesse cose le scrivevano ad esempio i tifosi del Napoli, che erano arrabbiati perché noi abbiamo vivisezionato l'episodio del rigore di Hamsik a Genova, e settimana prossima parleremo dell'Inter o del Milan o di qualunque spunto anche di moviola ci possa dare la cronaca. Grazie Eugenio Fascetti. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Io ricordo i contatti per parlare con noi, 800 24 00 24, oppure via sms al 349 238 6666, oppure potete scriverci su Twitter, @CapuanoGio, oppure ancora sulla nostra pagina Facebook, A Tempo di Sport. Chiamate, perché da qui in poi ci interessa anche sentire il vostro parere su questa giornata e anche sul derby di questa sera. Io ricordo quello che sta uscendo come indiscrezione da Milanello e ad Appiano: Milan che va verso un'esclusione di Antonini ed Abate dal primo minuto, nell'Inter dovrebbe esserci titolare Coutinho alle spalle di Milito e Cassano. Adesso ci fermiamo per un minuto di traffico. Da casa ci state scrivendo su alcuni dei temi di questa settima giornata, temi che vi abbiamo proposto anche nella nostra prima pagina, ad esempio sulla rivoluzione della Roman con Zeman, che oggi ha tenuto fuori soprattutto De Rossi insieme ad Osvaldo e a Burdisso. Molti tifosi si sono divisi intanto, abbiamo lanciato anche un sondaggio, con chi state Zeman o De Rossi, e siamo 50-50. Ebbene, Massimo ci ricorda, attenzione perché anche Villas Boas al Chelsea ha tentato di far fuori i ribelli, poi sapete come è finita. C'è chi ci ricorda il sacrificio fatto da De Rossi in estate per non andare al Manchester City e rimanere a fare la bandiera della Roma. Qualcuno come Andrea scrive: è l'inizio della fine per Zeman. Altri ancora, Marco: purtroppo Zeman non doveva tornare a Roma, oggi temo la Caporetto, anche se poi oggi la Roma oggi ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, e poi ancora Mario Scalia, che scriveva prima però della partita e prevedeva che cosa avrebbe detto Zeman sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta contro l'Atalanta, e che cosa sarebbe stato detto di lui, compreso che è un vecchio che non può più allenare, non ha la squadra in mano, insomma è destinato ad avere vita breve sulla panchina della Roma. Io saluto, e cominciamo a parlare e ad avvicinarci alla serata del derby di Milano, due tifosi DOC, uno interista, Igor Cassina, buonasera Igor. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. E uno milanista, Daniele Molmenti, medaglia d'oro a Londra, K1 slalom di canoa. Beh, Igor Cassina non ha bisogno di presentazioni, è il re degli anelli e quindi tra l'altro è notoriamente tifoso dell'Inter. Daniele Molmenti, tifoso del Milan, l'unico ad aver assistito all'allenamento, quello che conta, quello del venerdì a Milanello. Buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Quindi da te ciao, vogliamo Igor. Sapere assolutamente la formazione del Milan. Avanti. No, mi hanno fatto firmare. No, beh, io ho visto le ultime azioni, le ultime cose che stavano studiando Allegri. Stavano provando due o tre diverse situazioni. Io spero, insomma, che davanti ci sta sicuramente Sharaw e Bojan, però anche Pazzini è pronto, e il centrocampo non posso dirvi niente. E noi non vogliamo sapere, noi vogliamo sapere tutto, altro che non vogliamo sapere niente. Dici se queste indiscrezioni che arrivano da Milanello, per cui Abate e Antonini non giocano, al loro posto giocano Bonera e De Sciglio, esterni bassi in difesa, a te che hai questo rapporto con Allegri, tornano? Ma guarda, venerdì non era ancora deciso niente, lo sapete che alla fine il derby lo decide proprio la mattina stessa, per vedere chi sta bene, lui guarda negli occhi i giocatori e poi decide chi mettere in campo. Ah, oramai parli proprio come uno di quelli del calcio, che vivono di frasi fatte. Igor, cosa ti aspetti invece dal derby della tua Inter? Ma innanzitutto faccio i complimenti a Molmenti, che non l'ho ancora visto, quindi complimenti per il tuo bellissimo oro, e quindi speriamo questa sera che la mia Inter possa confermare, diciamo, un momento abbastanza buono, quindi io mi auguro, da buon interista, che oggi le cose possano andare nel migliore dei modi, ma sappiamo da veri sportivi che il derby è una partita particolare a sé, quindi anche se sulla carta magari una squadra può essere favorita, alla fine 90 minuti sono lunghi e bisogna sperare che tutto vada nel migliore dei modi, però credo che il momento sia buono per noi. L'ha detto anche Stramaccioni, che la battuta sul fatto che il Milan fosse favorito era tale, cioè soltanto una battuta, che questa è una partita che in realtà sfugge a qualsiasi pronostico. Ti piace Stramaccioni? Allora, diciamo che mi sembra una persona molto umile, coerente con le sue scelte, e sembra che ci sia una buona intesa dove anche gli stessi giocatori rispettano, e credo che questo sia molto importante quando ci sia rispetto e intesa tra i giocatori e l'allenatore, quindi sembra che riesca a far gruppo, e nel calcio è fondamentale, quindi noi ci crediamo e lotteremo come sempre. Sì, intanto io faccio ammenda, giustamente da casa mi hanno scritto al 349-238-6666, l'attrezzo di Igor non erano ovviamente gli anelli, io ti chiedo scusa Igor, chiedo scusa agli amici a casa, però comprendetemi, dopo un paio di ore di diretta si può anche cadere in queste cose. Daniele Molmenti invece, di Allegri sei convinto, oppure questa sera rischia di essere un po' il bivio della sua stagione? Ha davanti due settimane di sosta per le nazionali, dovesse arrivarci con la sconfitta nel derby, tu comunque vivi nel mondo dello sport, sai che è vero che poi tutti valutano come lavori, però è vero che alla fine la differenza la fanno i risultati, e quelli del Milan a questo punto comincerebbero davvero a mancare. Ma sai, sicuramente il risultato è come lavori, è quello che sta accadendo in tutta la squadra, però c'è questa consapevolezza nel Milan, che è stata fatta una scelta quest'estate, si sapeva, no? Si preventiva, insomma, due o tre mesi difficili. Io ho visto molta serenità tra i giocatori, si parlava molto apertamente anche con Allegri, quindi la consapevolezza, insomma, di questo momento da parte dei giocatori mi ha davvero rasserenato e rassicurato che hanno tutto sotto controllo. È ovvio che non è un Milan da Milan, i risultati sono stati difficili per tutte le occasioni, però già in Russia abbiamo fatto vedere che si sta cominciando a svoltare, il gioco di Allegri sta venendo fuori e noi speriamo che già questa sera, e io spero tanto che ci siano tanti tifosi a sostenere con il tifo tutto il Milan, ci sia insomma questa svolta che potrebbe ricambiare le carte in tavola e mettere al Milan insomma là davanti dove merita. Aprire una stagione nuova. Tu vai a San Siro stasera? Sì, sono al derby, certo. Allora ti faccio sentire che cosa ha detto ieri ai nostri microfoni un altro tifoso milanista, Doc, che oggi però è in Kenya, perché lui, se non c'è Berlusconi, non va a vedere la partita del Milan. Stiamo ovviamente scherzando, però sentiamo Flavio Briatore. Quando hai una squadra sei legato alla squadra fino al momento in cui non la vendi. Io sono convinto che il presidente è molto legato al Milan. Logicamente in certi momenti si devono fare delle scelte importanti. Quest'anno il Milan ha fatto la scelta di vendere Ibra al Paris Saint-Germain. Era una scelta obbligata. Ma sì, ma parliamo di cifre che sono... Ma Berlusconi può permettersi, Briatore, un Milan di essere presidente di un Milan senza ambizioni? Proprio per come è lui, per la sua necessità, anche a livello di immagine, di successo. Ma io credo che se questi ragazzi qui cominciano a vincere, si iniziano a vincere anche loro, devono avere più fiducia in loro stessi, perché poi non è che il Milan sia una squadra di Serie B, una squadra di blocchi. Il Milan è una squadra che ha dei giocatori molto buoni, ancora giocatori fortunati che devono rientrare. Non che, ma sai, lo sport è sempre così, basta far 4 vittorie, sei un fenomeno, per le 2 partite sei un pirla, per cui la squadra è sempre uguale. Io credo che ha fatto bene a vendere. Ha fatto bene o no Daniele Molmenti? Così dice Fabio Briatore, dice che ha fatto bene. Ha fatto sì, bene no, o no a vendere? Secondo me, già quest'estate, in altre interviste, ancora prima che decidessero, io avevo l'idea, il mio consiglio è stato proprio quello di magari rischiare un paio di stagioni provando una squadra nuova, perché insomma la mancanza dei grandi come Gattuso, Nesta, tutti assieme, ha dato sicuramente una scossa forte al Milan. Si poteva rimpiazzarli con delle toppe, comprando magari qualcuno importante, ma non sarebbe stata una squadra da Milan, sarebbe stato magari il singolo e tanti aggregati dietro. Facendo così c'è stata questa scelta di magari perdere un paio di stagioni, però poi fare un altro ciclo da Milan. L'obiettivo è questo, gli atleti sono giovani, gli visti sono molto molto bravi e motivati. Sicuramente Allegri sta cominciando a far giocare come sanno fare e sicuramente, secondo me, è stata la scelta giusta. Igor Cassina, dove va la tua Inter dopo questo derby? Ne parlavamo prima con Eugenio Fascetti, ne parlavamo anche con il direttore di Tutto Sport, Vittorio Regia. Lui diceva comunque finisce questo derby, se l'Inter non lo perde, ma anche soltanto se lo pareggiasse, sarebbe da tenere in considerazione come rivale per una corsa di vertice, magari non proprio per lo scudetto, però comunque un'interlocutrice con cui fare i conti in questa stagione. Ma io posso dire che siamo agli inizi del campionato, quindi forse è ancora prematuro parlare di dove può arrivare adesso l'Inter o la Juve che è capolista, e nell'attesa sempre della partita questa sera del Napoli. La Lazio comunque sta giocando bene, quindi adesso è ancora un pourparlers, no? Si intravede la possibilità di un club di poter far bene con acquisti che verranno fatti ancora a breve. Ripeto, l'importante è essere sereni, che ci sia gruppo, con l'allenatore che ci sia intesa, i giocatori davanti giocano bene, con il nostro Coutinho, Milito e Cassano credo che sia un bel tridente che possa far bene, la difesa è buona, il nostro Zanetti è sempre in forma. Quindi Igor, ti faccio sentire qualcuno che ha giocato qualche derby dai microfoni di Sky. Sto parlando di Sandro Mazzola, che è già fuori San Siro, si vede che sente particolarmente la partita. La panchina, a mio modo di vedere, anche perché gli altri due mi sembra che in partenza possano incutere più timore alla difesa del Milan, che non è il reparto più forte forse della squadra. Questo è Sandro Mazzola, si comincia a vivere queste ore di vigilia del derby di questa sera. Vi chiedo per chiudere, Igor Cassina e Daniele Molmenti, partendo da Igor perché gioca fuori casa, come finisce un pronostico secco, risultato? Allora, difficile fare pronostici, però siamo qui anche per questo. Io prevedo 2-1 per l'Inter. Daniele? Ma Cassano ci fa il primo, ma noi nel secondo tempo con Sharawi e Boateng riprendiamo un bel 2-1 per noi. Ah, quindi voi non siete scaramantici, eh? Non siete quelli che dicono vince il Milan, vince l'altro, è favorito, è davanti in classifica. Noi siamo atleti olimpici, siamo atleti veri, sappiamo che lo sport vero non si fanno con le parole, ma con quello che si mette in campo. Noi abbiamo dimostrato tanto e la nostra squadra lo farà stasera. Il Milan probabilmente lo farà meglio. Certo. Allora, questo è il parere di Daniele Molmenti. Igor Cassina, tu sei d'accordo, giusto? Come, scusa? Tu sei d'accordo che il Milan questa sera si esprimerà al meglio? Beh, allora, nel derby anche una squadra che arriva magari con dei problemi è normale che tira fuori qualcosa in più, quindi da una parte e dall'altra se le vedranno delle belle come sempre come il derby, quindi io mi auguro poi alla fine davvero sportivo che ci sia un bello spettacolo, perché il calcio ha bisogno anche di bello e vero spettacolo, oggigiorno soprattutto, però con un pizzico di briciolo, di spunto in più per l'Inter. Quindi sotto sotto un po' hai paura. Grazie a Igor Cassina e a Daniele Molmenti, grazie per essere stati con noi. A voi, ciao Igor, ciao. Ciao, presto. Noi siamo pronti a fermarci per la pubblicità. Prima ricordo però i contatti per le vostre telefonate, aspettiamo di sapere cosa ne pensate del derby di questa sera o ancora della giornata di oggi. Poi questa sera è anche la serata di Barcellona-Real Madrid e andremo in Spagna proprio a parlarne con l'inviato della Gazzetta dello Sport Paolo Condò. I contatti 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS, oppure scrivete sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport o via Twitter @ Capuano Gio. Pubblicità. Diamo anche qualche aggiornamento di risultati che arrivano dall'estero, anche se il meglio è questa sera, perché questa sera nell'arco di un'ora ci sono tre sfide di altissimo livello. Una è il derby di Milano, che è di altissimo livello per la storia che si porta dietro, comunque per l'attesa che c'è. Certamente di più alto livello è il classico spagnolo, quello tra Barcellona e Real Madrid, che inizia alle 19:50, e poi c'è anche in Francia alle 21 diretta Sport Italia dei tre, l'unico che si potrà vedere in chiaro. C'è la sfida che è un po' le classique francese tra il Marsiglia e il Paris Saint-Germain, con il Marsiglia che è davanti in classifica, 3 punti è in testa. Questa sera il Paris Saint-Germain cerca l'aggancio per poi iniziare la lunga volata che tutti gli hanno pronosticato alla vigilia di questa stagione. Sentiamo intanto Marchisio, Sky Sport. L'aspetto più importante è che la squadra è cresciuta, al di là del pochi giorni che ci sono per lavorare tra una partita e l'altra. La squadra è aumentata sia come qualità con i giocatori nuovi che sono arrivati, ma anche caratterialmente, che anche in partite così difficili alla fine, o con la giocata di qualcuno, comunque in altri modi si riesce a portare a casa la partita. E la giocata di qualcuno oggi a Siena per la Juventus è stata la giocata proprio di Claudio Marchisio. Dicevo, qualche risultato che viene da Inghilterra e Spagna. In Inghilterra oggi lo 0-0 deludente del Liverpool in casa contro lo Stoke City, la vittoria per 2-0 del Tottenham che piano piano si sta riprendendo, 2-0 sull'Aston Villa, e poi il pareggio 2-2 tra Southampton e Fulham, mentre a un quarto d'ora dalla fine è virtualmente decisa la gara del Manchester United, che conduce 3-0 fuori casa contro il Newcastle. Per quanto riguarda la Liga, in attesa, lo ripetiamo, di Barcellona-Real Madrid, da registrare la vittoria del Levante 1-0 contro il Valencia e la vittoria esterna del Granada 2-1 contro il Mallorca, mentre nel finale del primo tempo è in vantaggio 1-0 l'Athletic Bilbao di Marcelo Bielsa contro l'Osasuna. Questa sera, a seguire dopo Barcellona-Real Madrid, c'è anche un'altra partita molto interessante, che è la partita tra l'Atletico Madrid e il Malaga. A proposito di voci, tornando su Siena-Juventus, allora sentiamo l'analisi di Massimo Carrera ai microfoni di Sky Sport sulla partita. L'esigenza del momento, in questo momento volevamo vincere la partita, abbiamo optato di mettere i tre attaccanti, quindi volevamo vincere la partita. Sicuramente l'anno scorso questa partita sarebbe finita molto prima, perché avevamo più cattiveria agonistica e più cinismo, però no, oggi non è stato così e abbiamo dovuto aspettare il secondo tempo per fare il gol della vittoria. Questo Carrera sulla partita: ha dovuto aspettare fino all'85esimo la Juventus per fare il gol vittoria, dopo aver rischiato anche molto. Vero è che in classifica è a quota 19, 6 punti in più dell'anno scorso, A questo punto, in attesa questa sera di Napoli-Udinese, che è l'altra partita delle 20:45, Napoli deve vincere per appaiare la Juventus e proiettarsi poi sulla sfida di sabato 20 ottobre ore 18 allo Juventus Stadium. Sentiamo ancora Carrera sull'episodio contestato, quello del mancato secondo cartellino giallo a Chiellini alla mezz'ora del secondo tempo. Abbiamo sentito prima le proteste di Cosmi, secondo cui Chiellini andava espulso. Sentiamo come risponde Carrera. Ma sicuramente non mi sembrava un fallo di ammonizione. Rosina magari ha accentuato un pochettino, Giorgio ha aperto il braccio per non far passare l'avversario, però io ero lì vicino, non gli ho dato nessuna gomitata, ha un po' accentuato la caduta, quindi era ingiusta questa ammonizione. E l'ammonizione a cui si riferisce Carrera è la prima, quella che Mazzoleni ha dato a Chiellini al 22esimo del primo tempo, non la seconda, quella che avrebbe portato all'espulsione, ma dice Carrera, non essendoci la prima, il caso non esiste. Tornando invece a quello che è successo all'Olimpico di Roma, il successo per 3-0 della Roma contro l'Atalanta, l'esclusione di De Rossi, Burdisso e Osvaldo, un Zeman abbastanza piccato, sentiamo come l'ha motivata nel dopo partita. A parte che io ho sempre detto che per me possono giocare tutti dalla rosa, poi il discorso è che devo scendere 11, ho scelto questi 11 e non è discorso di quello che i ragazzi hanno fatto prima, a me interessa quello che fanno in questo momento e in questo momento ritenevo che la formazione che ho fatto era la migliore. Poi non discuto le qualità né di Burdisso né di De Rossi né di Osvaldo, che sono giocatori importanti e che spero che ci daranno tanto. Buonasera Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport a Barcellona. Buonasera Condò. Eccomi, ciao, saluti dal Camp Nou. Ti sento già in perfetto clima partita. Qui la fornace è già accesa. Ho letto un tuo tweet inquietante oggi nel pomeriggio, hai detto temperatura altissima, sciopero dei mezzi, meglio andare in anticipo allo stadio perché altrimenti si rischia di restare imbottigliati. Sì, oggi il Camp Nou, che non è esattamente nel centro di Barcellona, non è collegato praticamente perché c'è uno sciopero della metropolitana e hanno pensato bene di farlo parallelamente alla partita più importante dell'anno. E quindi c'è casino per arrivare, ma ce ne sarà soprattutto questa sera per tornare verso il centro della città. Raccontaci un po' questa atmosfera, perché questo è un classico e in Italia davvero non eravamo più abituati, che in Italia non vedremo se non su internet, ci sono alcune piattaforme che lo rilanciano, è un classico però che sarà invisibile per noi dal punto di vista televisivo, questo è certamente un gran peccato, però Sky alla fine non ha acquistato i diritti della Liga e quindi c'è molto interesse anche per capire qual è l'atmosfera di una partita che poi faremo un ragionamento dal punto di vista tecnico, può già essere definitiva, però Barcellona come l'aspetta? Beh, quest'anno c'è un forte significato politico, in realtà c'è sempre, però questa volta più delle altre, perché è un momento in cui la Catalogna sta rivendicando non più soltanto l'autonomia, vorrebbe parlare anche di indipendenza. Noi sappiamo che il Barcellona è probabilmente il simbolo più chiaro e conosciuto nel mondo di questa grande regione, trattino Stato, non saprei come definirla, ecco, e quindi insomma il Barcellona si sa già che al minuto 17 e 14 secondi, per ricordare la sconfitta di Barcellona nel 1714, succederà qualcosa allo stadio, potrebbe essere esibita la bandiera catalana con le stelle che è vietata, oppure ci potrebbe essere un coro indipendenza. Questo per dire agli amici che triestino, questo... ho vissuto abbastanza da vicino la tragedia dei Balcani, è una situazione che non mi piace a pelle, però perché non esiste o quasi non esiste un precedente storico di indipendenza senza sangue. Sì, questo per dire che ai tanti anche che ci scrivono dicendo che poi il calcio al di fuori dell'Italia è un paradiso e invece da noi si discute solo di arbitri, di polemiche, è che ad esempio in Italia io non ricordo, aiutami tu che hai certamente maggiore esperienza, ad esempio di un momento calcistico, un momento sportivo che si sia mischiato in maniera così stretta con tensioni che vanno ben oltre. No, no, in Italia non esistono, per fortuna, non esistono precedenti del genere, perlomeno a memoria, mentre ne esistono nell'ex Jugoslavia. Ricordo che una partita fra Stella Rossa di Belgrado e Dinamo Zagabria diede il via praticamente ai disordini che poi culminarono nell'inizio delle guerre balcaniche. Paolo, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per il traffico perché c'è anche in Italia, anche senza classico e anche senza sciopero dei mezzi. Del resto, Paolo, se non fanno lo sciopero in un momento in cui dà fastidio, verrebbe da dire che sciopero è, e quindi anzi probabilmente a Barcellona hanno scelto col lanternino il momento per fare lo sciopero dei mezzi. Ti chiedo un minuto di pazienza perché poi cerchiamo di capire quanto davvero questa partita possa essere decisiva per il futuro della Liga, per il futuro di Mourinho, per il futuro di questa stagione di due corazzate che sono comunque destinate ad arrivare fino in fondo. Traffico. In linea con Paolo Condò da Barcellona, inviato della Gazzetta dello Sport. Domani leggeremo con assoluto interesse la sua corrispondenza su questo Barcellona-Real Madrid, anche perché io lo ripeto perché raccolgo anche la tristezza e la protesta di molte persone, di molti appassionati. Questo è un classico che noi in Italia non vedremo né a pagamento né in chiaro, e questo ormai ci eravamo abituati, insomma, a poter seguire queste grandissime sfide. Paolo, dal punto di vista tecnico, che cosa deve dire? C'è il Barcellona senza difesa, ma il Real Madrid che sembra più o meno arrivato alla penultima spiaggia di questa Liga, perché dovesse andare a 11 punti, nemmeno Harry Potter, altro che Mourinho, potrebbe riaprirlo questo campionato. Sì, il Real Madrid arriva molto staccato a questa partita, perché in campionato ha iniziato molto male la stagione, e questa partita è una partita che io credo che anche il pareggio andrebbe bene al Barcellona, tutto sommato, considerato che il Barcellona, come dicevi giustamente tu, è senza difesa, oltre a Puyol oggi ha gettato la spugna pure Piqué. Il Real Madrid deve vincere per andare a 5 punti e riaprire un po' il torneo. Sarà una partita di grandissima tensione, però è il Barcellona ad avere 2 risultati su 3. Oggi abbiamo visto sempre su Twitter, che oramai è diventata una sorta di agenzia stampa aperta, questa mattina la foto postata da Sergio Ramos alla partenza per Barcellona, lui e Kakà. Kakà è forse l'unico dubbio, ammesso che esista ancora questo dubbio per Mourinho, gioca o no? Sono ancora arrivate le formazioni, mentre si sa già che non c'è, perché non è stato convocato dopo il provino di questa mattina, non si sa ancora quale sarà la formazione del Real Madrid. Ti posso dire che prima l'ho visto entrare allo stadio molto allegro e sereno, Kakà. Chissà che non abbia finalmente un'occasione importante stasera. Chissà che non sia un indizio. Prima di salutarti ti giro solo una domanda che non riguarda il classico, ma qualcosa che comunque tu conosci molto da vicino, di Sebastiano da Bassano, che ha scritto al 349-238-6666. Stanno per arrivare le convocazioni di Prandelli, si sa quasi per certo che ci sarà il Sharawi, non ci sarà Cassano, ci sarà il blocco della Juventus. Ti chiedeva che cosa ne pensi. Penso che, come sempre succede nelle squadre di Cassano, evidentemente ci deve essere stato il raggiungimento di un punto di sopportazione da parte del gruppo nei confronti del giocatore, perché dal punto di vista tecnico la mancata convocazione non si spiega. Cassano sta giocando molto bene in campionato dell'Inter, quindi evidentemente ci deve essere qualche problema, come dire, di ordine pubblico. Di carattere disciplinare e ambientale interno al gruppo della Nazionale. Grazie a Paolo Condò. Ciao a tutti. Grazie, buona partita. In attesa domani di leggere sulla Gazzetta dello Sport il racconto di questo classico tra Barcellona e Real Madrid. Ieri con Federico Casotti di Sport Italia abbiamo parlato invece delle classique francese alle ore 21 tra Marsiglia e Paris Saint-Germain. Mi ha raggiunto invece in studio Dario Ricci, perché siamo più o meno all'inizio del secondo quarto al Forum di Milano. Milano, sta andando in scena, chiamiamola amichevole, chiamiamola esibizione, tra l'Armani e i Boston Celtics. Allora, come sta andando? E allora, siamo quasi in metà del secondo quarto, caro Giovanni, 34 a 33 per Boston, finora un grande region rondo che nel primo quarto ha spaccato la partita, Milano che però ci sta dentro e come, soprattutto grazie al più futuribile in chiave NBA dei suoi, Airstone, o meglio, Airstone la NBA già l'ha conosciuta, una quarantina di partite a San Antonio l'ha fatta, poi anche per motivi fisici sta trovando qui in Europa la sua giusta dimensione, è chiaro che queste sono le sue partite, così come bene sta facendo anche Borussis, che in una sfida in cui certo non predominano le difese può dar sfoggio al suo repertorio offensivo. I Celtics poi, Giovanni, lo sai che sono a caccia di rivincite, perché il Fenerbahce di Pianigiani già li ha battuti a sorpresa l'altro giorno a Istanbul. Difficile immaginare che coach Rivers voglia tornare in quel di Boston con un doppio KO europeo nella pre-season, perché partita che conta quel che conta, ma soprattutto a gente come Garnett piace poco perdere in generale. Sì, diciamo che se ne faranno comunque una ragione, perché la cornice è meravigliosa, il forum è pieno, da sì. Mesi non c'è un biglietto, ma i biglietti più o meno sono stati bruciati tutti nell'arco di poche ore, quando è stato reso noto che il tour dell'NBA in questa pre-season avrebbe toccato ancora l'Italia e i Boston sarebbero arrivati a Milano per giocare contro l'Armani. Cornice bellissima, si vede dello spettacolo, magari si fa anche un po' di promozione a questo sport straordinario che è la pallacanestro, però per cortesia non diamo nessun tipo di valenza tecnica a questa partita. Ma sì, è chiaro che i Celtics iniziano la stagione fra poco meno di un mese, come d'abitudine, primo weekend di novembre. Milano invece qualcosa già la sta facendo vedere, e soprattutto inizio prossima settimana parte anche l'Eurolega, quindi è una partita che arriva dopo la prima sconfitta in campionato, quella di Bologna, e alla vigilia dell'Eurolega. È un momento delicato dal punto di vista tecnico, Milano cerca comunque un po' di garra, no? Rimanendo in ambito spagnoleggiante, cioè quella intensità, quella voglia che anche quando i meccanismi tecnici e gli schemi non sono ancora messi a regime, deve esserci sempre fino alla prima palla 2 della stagione. Milano che ha fatto un po' un bagno di umiltà contro Bologna, ha perso di poco, di 3 punti, però è anche vero che ha perso contro una banda di ragazzini. Io ho sentito Scariolo dire che anche questa sconfitta fa parte del processo di maturazione dell'Armani. Io credo che gli sarà consentito ancora per qualche settimana, perché poi questa è una squadra che è stata costruita per vincere e non per andare a prendere lezioni da qualche ragazzo in giro per l'Italia. No, assolutamente, anche perché volendo i ragazzi che possono dare qualche lezione, vedi Gentile e Melli, che sono nomi già segnati sui taccuini degli scout NBA presenti al forum, ce li ha. È chiaro che è una squadra che però è stata molto circondata da attenzione alla vigilia, c'è l'anno zero di Siena, c'è Milano che è la grande favorita, ecco, tutte queste chiacchiere non devono distogliere il gruppo dal fatto che queste vittorie vanno conquistate sul campo. Direi che la lezione di Bologna, come giustamente sottolineavi, può essere importante in questa chiave, anche perché Milano troppe occasioni ha perso per questi stessi motivi, no? Proprio per questa mancanza di capacità di ritrovare quello spirito che in fondo è quello delle scarpette rosse. Milano che forse non deve nemmeno farsi distrarre dalle polemiche contro il sistema, sono settimane difficili anche da questo punto di vista. Io credo che sia interesse di Prodi, della società, dello stesso Scariolo fare chiarezza, sistemare i conti che vanno sistemati e poi poter vivere la stagione che comunque si preannuncia esaltante dal punto di vista delle potenzialità, senza avere scheletri negli armadi. Diamo un'occhiata invece a che cosa è successo ieri nella seconda giornata. Milano aveva già giocato a Bologna, l'abbiamo detto, 67-64 per la Virtus. Io sto scorrendo rapidamente la classifica dopo le prime due giornate e in testa trovo, sorpresa, Siena. Sì, Siena sì, perché tra l'altro Siena è impegnata nel suo viaggio oltreoceano, notte scorsa ha perso di brutto 29 punti contro gli Spurs, domani se la vedrà contro i Cavs, ma sicuramente è un'esperienza importante per la mensana che sta ripartendo, e soprattutto è un onore per tutto il nostro basket poter godere di un invito di questo tipo. Beh, campionato che vede Siena in testa insieme a Bologna e Varese e Sassari. di Varese, che 11 vittorie su 11 tra precampionato e stagione regolare finora, un grande Polonara ieri, una Sassari che è passata a Montegranaro, una partita spettacolare 79-85 con tanti nuovi protagonisti che stanno emergendo tra i volti nuovi di questo campionato, e poi stasera 20:30 in concomitanza con la parte finale del vernissage del forum, Milano c'è anche, e Celtics, c'è anche Roma-Cantù, che è una partita non da poco, se posso dirti la mia, anche più interessante di questo Armani-Boston. Però tutto... voglio vedere se poi c'è il coraggio di vederti su Rai Sport. No, ma io questa sera Cantù, sono al derby, porta pazienza, e quindi ecco, mi dedico una cosa, calcio. Ti chiedo questa cosa al volo, ma non è brutto mettere anche televisivamente, sovrapporre due eventi così? No, ma io sono assolutamente d'accordo. È la grandezza di una città che si può permettere, purtroppo per un solo giorno all'anno, e una volta invece capitava molto più spesso di poter vivere due eventi di questo genere in contemporanea senza interessarsi l'uno dell'altro. Quando Milano dominava nella pallavolo, nella pallacanestro, nel calcio e anche in altre discipline, alla fine i palazzetti si riempivano, comunque. L'appuntamento questa sera, Dario? 20:30, palla spicchi, parleremo collegamenti dal forum, collegamenti da Roma, andremo in Lega 2 perché c'è Napoli che torna tra i protagonisti, mezz'ora come al solito non ci basterà, però ce la godremo. Quindi appuntamento alle 20:30 con Palla Spicchi, a Tempo di Sport invece si chiude qui. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, chi si è alternato in regia per la parte tecnica. Ricordo che l'appuntamento invece con lo sport e non solo con il calcio è per tutti i convocati. Domani ci sarò io a sostituire Carlo Genta a partire dalle ore 14:00.